denari. Allora, ancora la Grecia. I greci non sono proprio felicissimi da qualche mese a questa parte, perché insomma hanno grandi difficoltà economiche, ce lo raccontano molti colleghi giornalisti che hanno visitato questo paese, e quindi ancora la Grecia è al centro dei nostri interessi, lo è anche al centro dell'interesse di un ascoltatore che poco fa, Danilo, ci ha scritto: ma comprare casa o investire in Grecia può essere conveniente in questo momento? Caro Danilo, ma dal punto di vista delle quotazioni del mercato immobiliare certamente qualche occasione la trova, il problema è capire un po' se con tutta questa turbolenza valutaria può essere ragionevole avventurarsi in un momento come questo in un'operazione immobiliare. Poi magari il nostro esperto lui ci saprà dare. Lui penserà a chi non risica non rosica. E infatti è felice anche nel magari progettare una cosa di questo tipo, no? Che ne dici, Nicoletta? Può essere anche la progettazione, secondo me, una manifestazione di felicità, almeno secondo il mio pensiero. Comunque, perché parliamo di Grecia? Perché le notizie che sono arrivate in questi giorni continuano a mandare su e giù azioni, obbligazioni e valute. Ecco perché abbiamo ritenuto che anche in questa puntata di Investire Informati valesse la pena ripartire da qui. Investire Informati. Ebbene sì, a giovedì puntualmente ci ritroviamo ad Investire Informati, il nostro percorso in cui analizziamo a 360 gradi il tema risparmio, il tema investimento, con un occhio ai fatti di cronaca che non possiamo certo trascurare, anche se gli esperti ci suggeriscono sempre di pianificare in primo luogo i nostri obiettivi, però spesso per raggiungerli può essere necessario cambiare strategie, quindi oltre alla manutenzione ordinaria delle scelte iniziali va fatta ogni tanto anche un po' di manutenzione straordinaria. E allora in questo momento di mercato in cui abbiamo tassi di interesse eccezionalmente bassi, spinti sempre più in giù anche dalle politiche monetarie delle banche centrali, conviene riorganizzare la propria strategia, sempre naturalmente tenendo la barra dritta verso gli obiettivi concordati con il nostro consulente? Anche questo è il tema che affrontiamo oggi, lo mischieremo con la Grecia, e noi abbiamo il piacere di avere un gradito ritorno, lo abbiamo già preannunciato con tanto rullo di tamburi prima. Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Lupotto & Partners. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuto. Nevica anche a Torino? Come va là? Vengono giù grandi fiocchi, grossi faldoni. C'è il Big Snow adesso è stata ribattezzata questa tempesta che qualche città registrerà soprattutto nel sud Italia. Lo vedremo nelle prossime ore, speriamo che non ci siano disagi. Neve intanto, o non neve, il nostro numero è sempre verde. Bravo. 800 24 0024. Ci sono anche naturalmente gli sms da poter mandare, se volete, al 349 238 6666. Naturalmente potete seguire l'hashtag su Twitter Investire Informati, ci potete seguire su Facebook, e vogliamo che siate voi i protagonisti del nostro Investire Informati. Come? Al termine di questa prima parte di Cuore e Denari, dopo la nostra lezioncina, vi faremo una domanda per testare se questa lezione vi ha lasciato il segno. Naturalmente ai primi che risponderanno andrà subito un libro della nostra biblioteca. Allora, intanto, cara Nicoletta, ti voglio ricordare anche che Gianni Lupotto ha portato, perché l'abbiamo un po' trascurato quel portafoglietto lì ultimamente, ma lui ce l'ha riportato. Ti ricordi che gli abbiamo virtualmente consegnato 10.000 euro a cranio? E secondo te se ne è preso cura? Beh sì, conoscendo la professionalità del maestro Lupotto, naturalmente non posso avere dubbi, però voglio vedere quale delle due ha privilegiato, ecco. Perché insomma, no, carta canta. Devo dire che Gianni, conoscendolo anche molto bene, è molto zen, ha un carattere molto molto rassicurante, quindi da questo punto di vista, se questo appellativo può essere anche adottato per chi ha un modo di fare così rassicurante come Gianni Lupotto, allora Gianni Lupotto è zen. Torniamo a noi, perché siamo partiti dalla Grecia, perché vorrei che Lupotto commentasse queste prime dichiarazioni fatte dal ministro Varoufakis, che noi abbiamo ribattezzato amichevolmente come se fosse nostro amico, l'affascinante ministro scamiciato, perché ha fatto giuramento con la camicia fuori, lo ricorderete. Ha chiesto che i debiti greci possano essere di nuovo rinegoziati, ristrutturati, Lupotto, no? La Grecia ha già fatto una ristrutturazione del debito 3 anni fa, e con lei, io vorrei ricordarlo, abbiamo fatto proprio diverse puntate per spiegare in quel momento come i titoli vecchi, che erano anche detenuti ottenuti da risparmiatori italiani potessero essere scambiati con quelli di nuova emissione. Allora, intanto, facciamo subito una precisazione su questa eventuale nuova ristrutturazione che la Grecia chiede. Riguarda anche i piccoli risparmiatori, Lupotto? Dunque, non si può escludere a priori, va bene essere rassicuranti, però dobbiamo anche dire le cose come stanno. Diciamo che in questo momento il debito totale della Repubblica Greca è circa 300 miliardi, oltre due terzi è in mano a creditori come l'Unione Europea, il Fondo Monetario, la BCE, nel quadro di quegli aiuti del 2012. E meno di un terzo, 83 miliardi, in mano invece a privati, banche e risparmiatori che li hanno ricevuti in occasione della ristrutturazione del marzo 2012. In particolare, di questi 83 miliardi, 22 miliardi sono in scadenza nel 2015. Allora, al momento attuale le discussioni in corso riguardano i 221 miliardi in mano ai grandi creditori. Tuttavia, giorno per giorno, vediamo con che difficoltà procedono i negoziati. Oggi ci sono state brutte notizie per la Grecia, oggettivamente. Mm-hmm. Per cui, al momento non è possibile escludere l'eventualità che a fronte di chiusure delle istituzioni europee, BCE e Unione Europea in primis, la Grecia decida un'ulteriore ristrutturazione del debito privato. Certo. Al momento non è in discussione. Senta, lei ha detto le notizie di oggi sono brutte, l'abbiamo visto dalle ripercussioni che ci sono state proprio sulla borsa greca. Allora, prima di andare a quello che sarà lo swap nuovo del debito greco, magari trasferiamo questo argomento alla seconda parte della trasmissione perché già stiamo andando verso la chiusura di questa prima parte, le chiedo la notizia di questa mattina che si riferisce al fatto che la Banca Centrale Europea ieri a Varoufakis ha detto: se vuoi ancora essere finanziato da me non accetterò più collaterali greci. Ci spiega che cosa vuol dire in termini semplici? Sì, vuol dire che ciascun Stato membro dell'Unione può chiedere dei finanziamenti alla BCE a breve, consegnando come collaterale, che significa come garanzia. I titoli di Stato emessi dal proprio tesoro. Finora la Grecia ha potuto fare questa operazione grazie ad una deroga, perché normalmente la BCE non accetta titoli che non siano investment grade. Certo, i titoli greci sono di rating molto alto. I greci sono basso. Spazzatura, quindi sintetizzando, questo è il tema. La Grecia ha detto la BCE non mi interessa più che mi dia queste garanzie. Cuore e denari. Questo Sirtaki è spettacolare. Allora, prima abbiamo sentito un frammento del mio grasso grosso matrimonio greco, ora invece ripartiamo per quest'ultima parte di Cuore e Denari pensando, senti questa, ad un'altra celebre coppia, non greca, ma tutta statunitense, a cui proprio la Grecia e Alexis Tsipras stanno giocando un brutto scherzo. Sai a quale famiglia mi riferisco? Non blasonata dal punto di vista della nobiltà, però molto nota. Veramente la so. Dai, sì, perché abbiamo la scaletta ovviamente sotto i nostri occhi. Comunque parliamo della famiglia Clinton. Allora, la figlia, parliamo esattamente della figlia di Bill e Hillary Chelsea, ma soprattutto parliamo di suo marito Mark Mezvinsky, che ha perso diversi milioni di dollari, cioè diversi milioni di dollari per i suoi investimenti sbagliati su Atene, e nelle ultime ore il genero dell'ex e forse prossimo anche presidente americano è stato costretto a prendere carta e penna e ha scritto ai risparmiatori che seguiva che gli hanno affidato i loro quattrini, confermando di aver sbagliato le previsioni anche sulla possibile vittoria di Alexis Tsipras. Sì, ma io voglio dire, questi Clinton non l'hanno ancora capito che i cognomi Invinsky, quelli che finiscono così, non gli portano tanta fortuna, diciamo un pochino di problemini. Tu pensa come se tutti i Vinsky capitano, ecco, lì e fanno uno, danni. E pensa quella popò di suocera l'avrà preso per le orecchie, gli ha detto: senti un po' carino, guarda, sei pure diventato papà, mi hai fatto anche diventare nonna. No, dai. Tutto questo per alleggerire un po' il tema di questa mattina, che non è pesante, è molto interessante, però un po' complicato da spiegare, perché Gianni Lupotto, il nostro consulente finanziario di oggi, un gradito ritorno per Cuore Cuore Denari per il nostro spazio Investire Informati, stiamo tentando di tradurre in termini semplici come funzionerà questo potenziale, perché nessuno l'ha mica ancora approvato, nessuno ha detto sì, swap del debito greco, secondo le proposte fatte agli organismi europei dal ministro delle finanze greco, nuovo, nuovissimo di zecca, Varoufakis. Allora, la parola swap è anche difficile, è uno scambio, no? In realtà, però non abbiamo rimandato la nostra sigletta. Dai, è pronta. Investire informati. Il nostro punto della situazione sulla situazione greca, ma poi faremo anche il punto della situazione sui portafogli virtuali di Nicoletta e Deborah. Allora, Lupotto, una parte dei debiti greci, quelli contratti con l'Unione Europea, Varoufakis vorrebbe rinegoziarli trasformandoli in obbligazioni di scadenza più lunga indicizzate al PIL greco, sperando che questo riprenda anche a salire. I debiti invece contratti con la Banca Centrale Europea si pensa di poterli sostituire con obbligazioni perpetue, ma queste le conosciamo perché probabilmente anche qualche risparmiatore italiano ha in tasca delle obbligazioni perpetue, però lei oggi ci ribadisce che cosa sono. Sì, le obbligazioni perpetue sono sostanzialmente dei titoli di debito attraverso i quali il debitore si impegna, a fronte di un capitale che viene consegnato, a erogare delle cedole annuali o semestrali per un tempo indefinito. In realtà normalmente questi titoli hanno una scadenza molto lunga nel tempo, 50 o 60 anni, per comunque vengono definite perpetue. In questo modo, diciamo, il capitale viene restituito mediante il pagamento di cedole per un lungo, certo, periodo di tempo. Però insomma possono durare anche 70 anni, nel senso proprio non esiste, contrattualmente parlando, una scadenza pattuita, fissata nero su bianco. Capisco sì, bene. Esatto. Di solito però c'è una clausola attraverso la quale il debitore si riserva l'opzione di cosiddetta call, cioè richiamare il debito. Esattamente. Allora, in realtà poi la Banca Centrale Europea non sarebbe proprio molto favorevole a questa opzione, perché sarebbe quasi un po' come una sorta di aiuto di Stato, insomma è tutto ancora da studiare molto nei dettagli, però Varoufakis continua questo suo roadshow in tutta Europa per cercare di convincere anche gli altri leader europei che un aiuto in qualche modo è necessario darlo alla Grecia. Poi si può contestare tutto su come hanno gestito i loro soldi negli ultimi anni, responsabilità di altri governi, molti ascoltatori stanno, hai visto Nicoletta? Sì, stanno, no? Proprio scrivendo, proprio commentando questo aspetto. Però, allora, Investire Informati naturalmente apre le sue porte anche agli ascoltatori che stanno bussando all'800240024 e direi di andare subito a sentirli. Monica, buongiorno, ci chiama da Bergamo, benvenuta. Buongiorno Deborah, e saluto anche Nicoletta. Ma sì, va, Monica, sia gentile. Volevo un consiglio. Io ho investito a settembre una cospicua somma e adesso sto guadagnando il 7%. In fondi l'ho investiti 60% azionari, 40% obbligazionari. Adesso mio marito dice, e non siamo d'accordo su questo, però mi sentivo il vostro esperto, dice vendiamo tutto, portiamo a casa il ricavato, poi mettiamo tutto sul conto corrente, lo lasciamo lì per 6 mesi e vediamo come vanno le cose. Allora, guardi, secondo me già frigge sulla sedia Gianni Lupotto, per due ordini di ragioni. Monica, grazie intanto per aver condiviso con noi la sua pianificazione finanziaria familiare. Intanto forse scegliere un fondo di investimento per, come dire, anche se è andato molto bene, disinvestirlo nel giro di 6 mesi, forse era una scelta non corretta all'inizio. Qua in questo caso è andata bene, poteva anche andare tutto al contrario. Poi mettere tutti i soldi sul conto corrente come seconda opzione. Che cosa non va di queste scelte dei nostri amici Gianni Lupotto? Se c'è qualcosa che non va, perché in realtà io ho espresso un giudizio che lei potrebbe anche non condividere. Sì, dipende molto dalla pianificazione dei nostri ascoltatori, nel senso che una performance del 7% in pochi mesi è indubbiamente una performance eccellente e straordinaria. Se la pianificazione dei nostri ascoltatori era per esempio quella di accumulare qualche punto percentuale all'anno di performance, non mi sembra scorretta l'ipotesi di monetizzare questi guadagni, consolidare questo 7% e attendere qualche tempo, qualche settimana o qualche mese, nella consapevolezza e nella tranquillità che il rendimento magari che avevano pianificato per i prossimi 2 anni è già incamerato. Certo. Quindi diciamo è una possibile strategia. Allora, ammettendo che liquidino tutto, che cosa fare poi nell'immediato di questo denaro? Il marito di Monica dice: parcheggiamolo sul conto corrente in attesa magari di schiarite sui mercati per capire poi come eventualmente indirizzarlo meglio? Sì, i mercati per loro natura sono ciclici, quindi a grosse salite seguono altrettanto ripide discese a volte. Quindi il fatto di parcheggiare questi soldi in liquidità, se si è soddisfatti dei rendimenti maturati, d'obbligo, è una strategia possibile, perché nella fiducia che magari il mercato abbia un ritracciamento, perdita di qualche punto, possa consentire di rientrare magari negli stessi strumenti che si sono abbandonati poco prima o ripianificando l'ingresso su altri. Insomma, questo marito di Monica invece ha visto che ha fatto tutte le cose che sono state apprezzate dal nostro consulente finanziario, per cui Monica, mi sa che questa litigata dovrà soccombere rispetto a questa discussione, ovviamente che sarà del tutto pacifica, familiare. Però insomma, il tema del denaro e del risparmio apre sempre degli scenari conflittuali, anche in casa. Però effettivamente, se questo risultato molto interessante è stato raggiunto nel giro di poco, bravi che si accontentano, e senza, come dire, auspicare che si moltiplichi come i pani e i pesci questo rendimento, ci si accontenta e si porta a casa poi 7%, altro che accontentarsi, magari a vederne. Allora, andiamo a vedere il nostro portafoglietto. Sarei molto curiosa. Allora, Lupotto, ricordiamo un po' cosa abbiamo fatto con lei qualche tempo fa. Sì, vuole farlo lei, riassunto. Sì, abbiamo fatto due cose. Per quanto riguarda Nicoletta, abbiamo costruito un portafoglio prudente, lo abbiamo fatto nel novembre 2013, quindi sono passati circa 15 mesi, e questo portafoglio era caratterizzato dalla presenza di sole obbligazioni in euro e da qualche BTP Italia, che allora erano in emissione. Come si è comportato questo portafoglio, che era caratterizzato, lo ricordo, da un rischio molto basso? In questi 15 mesi ha maturato una performance del 5,81%, quindi 10.000 euro sono diventati 10.581. Rapportato ad anno significa una redditività del 4,65% su base annua, che è un rendimento eccellente se si considera il bassissimo rischio corso. Purtroppo per radio non possiamo far vedere i grafici, ma se fosse possibile si vedrebbe che questo portafoglio è cresciuto con una grande linearità in questi 15 mesi. Tanto magari per fare un parallelo, se confrontato al portafoglio dell'ascoltatrice precedente, che ha raggiunto un 7% di risultato in un arco temporale molto inferiore, però quel portafoglio lì era molto sbilanciato sulla componente azionaria, ho capito male, me lo ricordo male? Esattamente così, aveva un 60% di azionario, ecco. Quindi chiaramente ha oscillato molto di più e potrebbe oscillare molto di più in infatti futuro. Per cui hai capito, sono un po' più ricca e sono soddisfatta. Sei contenta? Adesso voglio sentire che cosa ha fatto con i tuoi 10.000 euro. Allora, perché magari lui ha fatto delle preferenze, non volendolo. Ma secondo te, integerrimo com'è Gianni Lupotto, fa delle preferenze? Io potrei pensare di... Vediamo. Dottor Lupotto. Anzitutto non abbiamo fatto preferenze, perché abbiamo rispettato per entrambi il profilo. Il profilo che ci ha dato Deborah era invece un pochino più aggressivo. Un po' spregiudicato, mettiamola così. Spregiudicato, di puntare anche su valute straniere, con un investimento più diversificato. Allora abbiamo investito, in questo caso 5 mesi fa, al 22 di settembre, la cifra che Nicoletta aveva maturato in quell'occasione, alla stessa data, cioè 10.480, il controvalore del portafoglio di Nicoletta a quella data. Per partire uguali. Oh. Ecco, partendo uguali, adesso abbiamo già detto che Nicoletta è arrivata a 10.580 e Deborah è arrivata a ieri a 11.412. Quindi questo vuol dire che noi si esce a cena, paga Deborah, viene Filippa Oreggi, il dottor Lupotto, esotta ma scena, molto Marco volentieri Lombardo. Se li avessi, molto volentieri, tutto virtuale. Però magari per dire quali sono gli strumenti particolarmente aggressivi, lo ricordiamo, Lupotto, che lei mi aveva suggerito di investire in questo portafoglio virtuale, che cosa ha dato particolare soddisfazione a questo rendimento? Ecco, anche per confrontarlo con il portafoglio di Monica che ci ha chiamato prima, la performance di questi 5 mesi è stata in questo caso del 9%, che rapportata ad anno è il 24%, una performance ovviamente straordinaria e difficilmente replicabile in futuro. E in questo caso noi non abbiamo puntato tanto su un'esposizione azionaria, più che altro abbiamo individuato a quell'epoca che ci potevano essere delle soddisfazioni derivanti dall'apprezzamento del dollaro in particolare, e in secondo ordine anche della lira turca, quindi abbiamo inserito una diversificazione obbligazionaria in valuta. In questo modo il portafoglio ha avuto modo di crescere, soprattutto negli ultimi 2 mesi, quando il dollaro abbiamo visto sia molto apprezzato. Allora, il tema adesso è capire se dobbiamo cambiare qualcosa delle nostre strategie con questi tassi bassissimi indotti anche dalla Banca Centrale Europea. Però prima di fare tutto questo, io vorrei lanciare un domandone ai nostri ascoltatori, se no che le facciamo a fare queste lezioni? Assolutamente. Siamo pronti? Lanciamo il domandone. Allora, non mi ricordo bene se la facciamo fare a Gianni Lupotto la domanda o se la dobbiamo fare noi. Marco Lombardo, che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che la faccio io. La faccio io la domanda, dopodiché Gianni, quando gli ascoltatori risponderanno, testerà, verificherà se la risposta è quella corretta. Gianni, che sarebbe il nostro prof. Gianni Lupotto, certamente, ormai siamo talmente così in confidenza. Allora, vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se dalla prima parte di Cuore Denari Investire Informati hanno capito, e se vogliono candidarsi a spiegarcelo, che cos'è il collaterale, qua ovviamente in gergo finanziario, riferito anche, se volete, alla questione greca, se vi serve utilizzare la Grecia appunto per spiegarlo meglio, che cos'è il collaterale finanziario che la BCE chiede ai paesi. 800 24 00 24, avete purtroppo solo 4 minuti di tempo per candidarvi alla risposta. Allora, Lupotto, come facciamo manutenzione del portafoglio mio e di quello di Nicoletta? Cambiamo qualcosa? Sì, direi che qualcosa è opportuno cambiare. Per quanto riguarda Nicoletta, abbandoniamo i 2 ETF sui governativi a bassa duration e sui corporate a bassa duration, in quanto si sono apprezzati sufficientemente, e sostituiamo questi 2 investimenti con altri strumenti, in particolare uno strumento che mantiene l'esposizione ai titoli governativi ma più diversificata, perché andiamo sui governativi mondiali, in particolare sulle obbligazioni inflation linked, cioè legate all'inflazione. Qualcuno potrebbe dire: come mai investire sull'inflazione quando l'inflazione è così bassa? Ma è proprio questo la chiave: nel momento in cui l'inflazione è molto bassa, questi titoli hanno un potenziale di apprezzamento elevato, e quindi entriamo su questo ETF che è quotato a Milano e che investe su titoli legati all'inflazione. Cambiamo del mio rapidamente, Lupotto, perché abbiamo un minuto e mezzo. D'accordo, nel caso di Deborah avevamo questo ETF in dollari short duration che è andato molto bene, come abbiamo visto prima. Guardi, in questo caso non le faccio fare la spiegazione di short duration, ma dovremmo farla per essere proprio una vera scuola di risparmio. Però, giusto, allora in 5 secondi diciamo che in pratica investe in obbligazioni che scadono fra poco, a breve termine. Short. Intuito anch'io. Lo sostituiamo decidendo di entrare su una quota di azionario. Dal momento che ci sono le condizioni perché l'Italia possa impostare una ripresa, e anche a titolo di fiducia nell'Italia, inseriamo un ETF che investe sull'indice FTSE MIB per circa il 20-25% del portafoglio, e vedremo se questa idea di investimento avrà successo. E poi ci risentiamo in primavera per fare un altro piccolo tagliando al portafoglio virtuale. Ho molta fiducia. Ottimo. Allora, abbiamo la risposta. Antonello al da Genova ci si candida. Buongiorno Antonello, benvenuto. Buongiorno, volevo rispondere alla domanda riguardo il collaterale. Equivale alla garanzia, come dicevate all'inizio trasmissione. Qua è partito l'applauso che non sapevamo se si potesse già meritare, però immaginiamo di sì. Grazie Antonello. Lupotto ha detto tutto correttamente, l'ascoltatore. The winner is Antonello. Non riusciamo a rispondere a Marco dalla provincia di Como, lo abbiamo chiamato, ma lui voleva sapere se, avendo dei BTP Italia in portafoglio, cosa succede con questi tassi bassi e dopo il quantitative leasing della Banca Centrale Europea. Marco ci scriva, perché Gianni Lupotto risponde sempre a tantissimi ascoltatori e ci aiuterà anche questa volta. Allora, abbiamo terminato. Sì, noi torniamo domani. Certamente. Sempre alle 11. Intanto buona giornata, buon pomeriggio. E noi, Lupotto, grazie. Buona giornata anche a lei, buon lavoro. Grazie per tutto il lavoro che ha fatto per noi. Grazie. A presto. Grazie. A presto. Alla prossima, domani. Cuore e denari.